Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Coronavirus, anche oggi facciamo il punto della situazione. Obiettivo Salute, la professoressa Ilaria Capua, virologa e direttrice del Centro d'Eccellenza One Health, Università della Florida. Professoressa Capua, sulla base del numero dei decessi e dei contagi registrati in Cina, quale evoluzione si può prevedere del coronavirus? Sull'evoluzione dell'epidemia da coronavirus possiamo dire che i dati ci confortano, nel senso che il numero totale degli infetti è arrivato a 40.000, ma è probabile che in realtà si tratti di molto di più, si tratti forse anche di centinaia di migliaia o anche di qualche milione. Detto ciò, il numero delle morti è molto basso e invece il numero dei guariti è in aumento. Quindi possiamo dire che questa infezione, benché si sia verificata in Cina e quindi in un paese nel quale diciamo vi sono parecchie fragilità, si sia diffusa con una rapidità notevole. Però possiamo dire che di certo non assomiglia per niente a quelle tipologie di epidemie apocalittiche che si vedono in alcuni film. Bisognerebbe anche riflettere effettivamente se queste epidemie apocalittiche al giorno d'oggi, con gli antibiotici e con tutta una serie di altri sistemi di comunicazione, come ad esempio il telefono e l'email, che tanti anni fa non c'erano, se possiamo veramente riflettere su come in un mondo così rapido e così globalizzato, nel quale certamente i virus viaggiano più rapidamente, ma è molto probabile che questi scenari che vengono così raccontati nei film e nei libri, oppure nei libri di storia, perché sicuramente l'influenza spagnola ha ucciso oltre 20 milioni di persone, ma diciamo che era molti anni fa. Quindi io sono ottimista, anche se la situazione è in evoluzione. Andiamo in Europa. Il numero di casi potrebbe rappresentare la punta di un iceberg? Il fatto che vi siano 135 casi al di fuori dalla Cina indica che l'infezione chiaramente è uscita da quel paese, e sono numeri che sembrano essere bassi, ma in realtà potrebbero essere delle sottostime, perché è ovvio che non tutte le persone infette sviluppano una malattia clinica grave, non tutte le persone infette, anche diciamo passeggeri o viaggiatori o turisti, necessariamente al ritorno di un viaggio, anche se sviluppano una forma respiratoria, vanno dal medico. Quindi è anche possibile che in realtà i 135 casi al di fuori della Cina siano forse molti di più, e questo lo sapremo dire nei prossimi giorni. È ovvio che è essenziale avere dei diagnostici da poter utilizzare per diagnosticare la malattia. Per questo sottolineo l'importanza della condivisione dei dati genetici dei virus, perché senza queste informazioni non è possibile sviluppare diagnostici da utilizzare appunto per valutare l'estensione dell'infezione. Vi lascio a Melog, vi aspetto per la diretta Facebook, tutta dedicata alla mano. Dalla rizoartrosi al tunnel carpale ai traumi, ci sono nuovi approcci e nuove soluzioni personalizzate. Seguitemi. Una buona giornata da Nicoletta.